non sarà parente. Tare bonga jala tare barita. Malo marude rude. Malo musedo i mangarada. Sita gol parkaronco. Ai malo musedo i bana. Isema ita he. Si tu mora kasih, oh, malu.